che succede? Comincia Frigider. Ah, già, è vero. Sono le tre. Ma chi lo fa Frigider? Col DJ Ariel. Ah, col DJ Ariel. Che bello è Frigider, Frigider, Frigider. Frigider è bello, si aprono le porte del frigorifero. Va bene, allora per tutti gli amici d'ascolto questo è il vostro momento, il momento in cui potete chiedere qualsiasi cosa. Frigider! Oh, Frigider! Amici ascoltatori, allegria! Salute a tutti! Subissateci, fax, inviateci lettere, letterine, mega messaggini, tutto ciò che vi capita per la testa. Mandatelo, spedite, c'è il sostato, sono ancora molto fiero di rispondere. Diretta dai giganteschi spavillanti studi di Radio Rock FM, siti in via Locatelli 1, 2124 Milano. Anche quest'oggi ci faremo aiutare nella parte autorale dal nostro gabbiano. Non eviterà di dire la sua, la mucca Camilla. Impossibile tenere a bada l'irruenza, l'irreverenza di Mister Trombetta. Manco fosse il DJ Edo. Un maialino che non ricordo assolutamente come si possa chiamare. E il trombone cialtrone. I rumori ci sono, quindi potremmo partire in questo nuovo appuntamento settimanale. Aspettate che mi carico una bella base. Questa può andare bene? Ah no, perché la cambio? Questa è più bella da inizio, no? Che vi facciamo sgasare anche quest'oggi. Bikers all'ascolto, citando un collega. Numero di SMS potrebbe servire, potrebbe servirci. 338-6171-300. Casella di posta elettronica ariel@radiorockfm.com. Ne ho di cose da raccontarvi quest'oggi. Mettetevi comodi, del buon rock and roll nelle vostre orecchie. Ok, shut up! Dead guy's got the floor. I might just get emotional, so bear with me. Okay, shut up, we both know the rules. This is a 50-yard death grip dash for fools. And anyone else convinced of the divinity of that baby. Famous, ignoramus. No. capito che pettinata inizio trasmissione. Cari ragazzi, col ciuffo vi pettiniamo noi di Frigidaire oggi. Una bella novità, The Smash Up è il nome della formazione. Vedi, a proposito di parrucchieri, e il singolo, la novità, era intitolata No Name. Bene, se avete bisogno di pettinate, restate all'ascolto di Rock FM, l'unica radio che vi pettina alzando il volume, niente di più. Non abbiamo bisogno di forbici né tantomeno di phon, basta alzare il volume a manetta e di solito il ciuffo va a posto. Le coordinate ve le ho ricordate, mi tuffo in rete, ovviamente volo d'angelo, per controllare i santi di quest'oggi. Non potrei iniziare una puntata così del 24 di gennaio in pace con me stesso senza avervi letto la sfilza di santi in corso, e allora quasi quasi continuo a pettinarvi. Se gli Smash Up ve l'hanno fatta, cioè li avete presi girati verso destra, giratevi verso sinistra che vi faccio la cresta. Però dovete alzare il volume, se no non funziona, eh? È una questione, è come il phon, esatto, però dovete alzare a manetta. Pantera, I'm Broken, così. Broken, sono spezzato, Pantera, che fanno bene alle 3:20 del pomeriggio. Tirano su, no? Caso il pranzo fosse stato anche un po' pesantino, Pantera riescono a svolgere una funzione, quasi come il grappino, no? Tanto per restare in tema. Andrei, a proposito di grappini, con l'appuntamento dei santi del giorno, una sfilza di nomi nella speranza che si possa trovare un motivo in più per festeggiare quest'oggi, magari un onomastico inatteso, può essere, capita, a volte. Il gioco è semplice. Vincete se avete lo stesso nome che leggo. UDG. Ad estrazione, in questo mercoledì 24 gennaio, vince San Babila. E se vi chiamate Esuperanzio è anche il vostro onomastico. Si prosegue con San Feliciano di Foligno e San Francesco di Sales. Beati Guglielmo Ireland e Giovanni Groove. E Santa Ksenia, però scritto KS, non come l'eroina di Pietroburgo. Beata Maria Pusepin, beata Paola Gambaracosta, beato Paolo De Ambrosis da Croppani e San Sabiniano Martire. Si prosegue con beato Timoteo Giaccardo, anche Timoteo volendo, beato Vincenzo Lewoniuk e 12 compagni e di nuovo Santa Ksenia, però questa volta con la X. È proprio lei, auguroni. Lo sapeva. La chiamo subito Ksenia. Ce l'ho il numero. È un'amica della mucca Camilla, sono proprio vicine. Well, imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding! What a beautiful wedding! Says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame! What a shame! The poor groom's bride is all. Fact. Well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. Chiamano Panic, punto esclamativo at the disco, sicuramente dei ragazzi col ciuffo. I Write Sins Not Tragedies, il brano appena ascoltato, sonorità, motivi che mi permettono di ricordarvi l'appuntamento con Sonic, la bella rivista che da qualche mese trovate nelle migliori e peggiori edicole. Sonic, che è anche un appuntamento radiofonico, ovviamente su Radio Rock FM, che trovate nelle sere del mercoledì, per l'appunto, e del venerdì, un giro in compagnia di Marco Garavelli e un giro in compagnia del sottoscritto DJ Lariele. Quindi questa sera è a mio appannaggio la puntata di Sonic che andrà in onda con tutte le novità di questo genere che tanto piace ai giovani, salutando, ringraziando il grande autore radiofonico Marco ragazzo col ciuffo Aspesi che si occupa delle note e della programmazione musicale degli appuntamenti targati Sonic. A proposito di appuntamenti radiofonici, ne avrò qualcuno da farvi nel corso della puntata di quest'oggi, uno in particolare che riguarda gli appuntamenti di Easy Rider, che questa settimana, oltre a essere nelle sere dal lunedì al giovedì dalle 21 alle 22, prevederà anche uno spazio dedicato all'interno del pomeriggio di Frigidaire. Lo so, vi ho fatto venire l'acquolina in bocca, ma ve lo svelo dopo il segreto. Mannaggia a voi, sempre che volete sapere tutto. E tutti i volti che siamo stati a Frigidaire, e c'era DJ Ariel. Cercava i suoi CD più belli, quelli che teneva sempre dentro la Peugeot. Oh DJ, DJ, DJ. Rock non stop. Che velocità, io sto cadendo, precipito, rapido, sempre più rapido, verso il fondo, precipito, e guarda come brillo mentre scendo, precipito. Gente come una cometa, risplendo, precipito, precipito, giù, come fulmine acceso, sereno, sereno, sarà sereno, sarà sereno, tanto meglio, che è più spettacolare e coreografica, se ti schianti, la furia. Fotografi poi giù a pugni chiusi, che all'impatto si sbografi, non resteranno delusi. Precipita, guarda come sono delle gialli come il venti schianto. Precipita. Cometa. Come una supernova, risplendo. Come una supernova, allora. Precipito. Giorgio Canali. Come una meteora, precipita come un fulmine. Come una cometa. La buona musica italiana di Rock FM. Precipito, Giorgio Canali. ce ne sarà ancora di spazio per la buona musica. Ricordo l'appuntamento con l'album da scongelare di questa settimana, Catartica dei Marlene Kuntz. Giorgio, devi tornare a passare a trovarci. È tanto che non passi da qui. Noi ti aspettiamo, eh? Adesso abbiamo anche gli studi giganti. Possiamo organizzare una festa. Sì, sì, potrebbe essere una buona idea organizzare un bel party negli studi di Rock FM. La migliore idea però che mi può venire in questo momento è sicuramente quella di farvi ascoltare un'altra delle belle novità all'interno della rubrica del CD della settimana. Si chiamano Cool War Kids. Ci stiamo ascoltando da lunedì il loro nuovissimo lavoro intitolato Rubbers and Cowards. Il CD della settimana. Quest'oggi vado a proporvi la traccia numero 7, si intitola Rubbers, e loro per l'appunto rispondono al nome di Cold War Kids. Particolare questa traccia numero 7 dei Cold War Kids dal loro lavoro Rubbers and Cowards, brano tra l'altro intitolato Rubbers, quindi con riferimenti anche nel titolo dell'intero album dei Cold War Kids. Torneremo a occuparci di loro domani, sempre in questo orario pomeridiano oppure al mattino, con Marco Garavelli. Prima di andare a vedere che cosa mi state scrivendo alle nostre coordinate, che vi ricordo sempre essere 338 6171 300, il numero di SMS ariel@radiorockfm.com, vado a lanciarvi il perlotto del passato. Rock FM Milano, Italy. Hai capito che roba, eh? Bentornati negli 80. It ain't no big thing. Lita Ford. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow $10 from my old man. Uh-huh. che vuole un sacco di baci. Anche a noi ci piace ballare con te, cara Lita. Kiss me one, kiss me twice. Kiss me deadly, che in realtà è il titolo, semplicemente Kiss me deadly, di questo singolozzo di Lita Ford. Allora, vi ho ricordato un paio di volte le nostre coordinate, ovviamente vi fate sentire. Vediamo di gestire l'attimo anche nelle due ore a nostra disposizione di quest'oggi, anche se ci siamo già schiumati una bella quarantina di minuti. Bene, come spesso e volentieri capita, si parla di Mister Trombetta, uno dei nostri personaggi storici del Frigidaire, un oggetto che oltre ad avere grosse idee autorali per il nostro programma sembra anche portare decisamente bene, certamente agli studenti. Ci sono dozzine e dozzine di elementi catalogati, di elementi di casistiche studiate, nelle quali molti dei radioascoltatori e delle radioascoltatrici, pur essendo assolutamente impreparati e gettando i libri dalla finestra, avendo ricevuto la classica strombazzata di Mister Trombetta, che non consiste altro che in questo, ecco, hanno passato indenni esami e quant'altro. Quest'oggi invece mi viene richiesto l'ausilio di Mister Trombetta per il traffico. Caro notturno da Firenze, non sono certo della possibilità che il traffico possa sciogliersi, ma insomma, io la strombazzata non la devo mai a nessuno. Tra l'altro il buon notturno si accorge del perché la gente intorno lo sta guardando e perché gli è venuta la cresta per davvero. Caro notturno, ma perché mi hai preso? Se faccio una promessa, se dico che con la musica di quest'oggi vi faccio la cresta alzando il volume, è ovvio che è vero. Mentre via mail mi viene chiesto aiuto per un'altra, addirittura mi viene chiesto una benedizione, che è il termine forse più adatto effettivamente, per un colloquio di lavoro, giusto, un colloquio un po' tardi. Caro Bonnie, stai in una botte di ferro, fatti però il ciuffo. Perché vai tutto così spettinato dopo lo scorto di Frigidaire, fai una brutta impressione. Come d'altra parte la farebbero loro, che sono brutti. Wednesday 13. Dicevo brutti, brutti sicuramente sono brutti, c'è da dire che sono anche belli grintosi. My Home Sweet Homicide, Wednesday 13. Brutti ve lo dico perché mi è capitato di vederli, come spesso e volentieri le band che programmiamo poi passano a trovarci per gentilezza, insomma vengono, dicono ragazzi oh grazie del supporto, ci fa piacere che Radio Rock FM programmi la nostra canzone, e quando sono brutti oh sono brutti, brutti ma bravi, ecco. Vado a salutare anche Simone da Milano, vado a salutare Joe, non so da dove possa arrivare questo messaggio, ma è un gentil messaggio di complimenti e quindi fa sempre piacere. Oberato dal lavoro, rischia la follia, un Fabio Kai, rock and roll. Mentre abbiamo conferma del funzionamento delle strombazzate di Mr. Trombetta, caro DJ Ariele, la tua strombazzata di lunedì. Ci tengo a precisare, non, io non strombazzo nessuno, è Mister Trombetta che strombazza, ok? Mica che poi saltate, ecco, capito? Dicevo, ho perso il messaggio, che è successo? Ecco, la strombazzata di lunedì mi è servita, ho fatto due esami, 30 e 30 elode, tanto per capirci. Chiamano Madness, si va in levare! La festa Frigidaire inizia adesso, evviva! Le avete portate le lingue di Menelik? Ah, io ce ne ho sempre un paio in tasca! Madness, madness, Trombetta quando sente il levare scatta subito. Mister Trombetta ha un sogno nella vita, quello di far parte della sezione fiati di una bella band di ska, come per esempio i Liberator, perché no? E ci siamo ascoltati con Kick the Bucket, subito dopo Madness dei Madness. E via! Ormai la festa è scattata, Luca Camilla è in giro con le patatine, trombone cialtrone si è rubato la boccia di Sprite ed è in giro a fare la gara di Rutti con il gabbiano, insomma quelle cose che succedono in ogni parte che ben si rispetta. Stiamo già per terminare la prima ora di quest'oggi e continueremo a festeggiare tra pochissimo con un'altra intera ora a nostra disposizione, ma devo complimentarmi con un amico o un'amica che in maniera anonima manda uno dei miei messaggi preferiti. Daresti l'indirizzo che se fate i bravi vi mando una cosa buona? Carta e penna, cari giovani, Radio Rock FM si trova in via Locatelli 1, 20124, Milano. Ecco, sia ben chiaro, per pacchi bomba, stupefacenti e armi garantiamo, cioè preferiamo pacchi anonimi. Per insaccati, alcolici e buon cibo potete anche specificare per Ariel. Grazie mille, vi lascio in compagnia della Rock Shock della settimana e ci si risente tra pochissimo. Within Temptation, What Have You Done? E via. Trying, you know that there's no denying. I won't show. O Venuzzo ti piace la sigarettella virè? Frigiderre tossente ogni giorno alle tre. Hai 30 anni e ti miaghi e uscire per giù d'un me. O stipendio tu mangi e anda a collare buono a pubblicità. FM. Altroni come piacciono a noi, Suicide Machine. È con un SOS che inizia la seconda ora di diretta di quest'oggi, Frigidaire, sulle frequenze di Rock FM, per chi ancora ce le ha. Come ogni giorno, messaggi di orfani delle nostre frequenze che chiedono disperati come fare per ascoltare Rock FM. Caro Ricca, ecco, questo è l'ultimo messaggio che è arrivato. Potete tentare di ascoltare Rock FM in streaming tramite radiorockfm.com, come per esempio fa quell'alcolizzato del Prussia che ascolta in streaming. Dalle Dolomiti finalmente innevate. Vedi, te l'abbiamo portata noi la neve, caro Prussia. Quando abbiamo fatto la puntata dedicata all'inno di Nevelandia, Mister Trombetta porta bene, si sa, è così ormai. Lo stiamo pensando, Prussia, l'inno di Nevelandia, eh? I radioascoltatori continuano a proporre grandi testi, le faremo sapere il prima possibile. Intanto vi faccio sapere un'altra cosa. Per gli appassionati della buona musica, sicuramente conoscete l'appuntamento serale con Easy Rider dalle 21 alle 22, appuntamento che tra l'altro ha ripreso in pompa magna, permettetemi di dirlo, da questo lunedì, dopo un bel paio di settimane buone di problemi tecnici di trasmissione. Per festeggiare la ripresa di Easy Rider abbiamo un appuntamento nuovo da raccomandarvi per quanto riguarda questa settimana di Frigidaire. Infatti nella puntata di venerdì, nello specifico venerdì 26 gennaio, segnatevelo sulle vostre agendine, qui a Frigidaire si parlerà di lumi di punk. Infatti ospiteremo un vecchio caro amico di Easy Rider e di Frigidaire, ovvero il buon Marco Filopat, e non ci mancheremo anche la presenza fondamentale di Mox Cristadoro. Quindi venerdì faremo una sorta di speciale Easy Rider per presentare questo nuovo libro di Marco Filopat, Lumi di Punk, la storia del punk in Italia raccontata dai protagonisti. Il libro che è stato pubblicato a fine 2006 dall'agenzia X e che già è stato ristampato. Ricordiamo che il buon Marco Filopat è reduce da un grosso successo editoriale denominato Costretti a Sanguinare, libro anche quello che è arrivato a dozzine e dozzine di giri di ristampe, se si dice giri di ristampe in termine editoriale. Lumi di Punk sarà dunque anche un'intervista che avverrà qui venerdì pomeriggio in diretta dalle 15 alle 17. Essendo la storia raccontata dai protagonisti, anche noi tenteremo di raccattare qualche amico di Rock FM sparso per la penisola per raccontarci degli inizi del punk in Italia. Uno di questi ospiti, perché no, potrebbe anche essere il flaco dei punk pancreas per il Nord Italia che conta. Nel pancandato. Pancreas, ho detto pancreas? Sono già partiti in sottofondo, guardate voi. Questa è Tutti in Pista, venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17, Frigidaire no se tocca! Intitolato Tutti in Pista, targato Pancreas, contenuto in quell'album Paranoia e Potere, che ha riconciliato tanti giovani con il punk italiano. Per gli affezionati del genere, non perdete, ripeto, l'appuntamento di questo venerdì con speciale Easy Rider, Lumidi Punk, il nuovo lavoro di Marco Filopat, con Marco Filopat nei nostri studi di Rock FM. Saremo contenti di presentargli i nuovi giganteschi studi e soprattutto anche ospiti telefonici che racconteranno in prima persona quello che è il nuovo libro Lumidi Punk. Prima di passare all'appuntamento con il CD da scongelare, ho un'altra notizia che volevo segnalarvi, in realtà non bellissima, è una brutta notizia riguardante James Brown, ovviamente non brutta quanto quella che abbiamo dato lo scorso 25 dicembre, quando il buon James Brown ha abbandonato la vita terrena. Sono in realtà, il problema è che James Brown non è stato ancora sepolto, il tutto perché ovviamente ci sono contrasti all'interno della famiglia, eredi con qualche questione da sistemare, ma soprattutto decisioni da prendere, fanno sì che la salma di James Brown per l'appunto non sia stata ancora inumata. Il Godfather of Soul, morto lo scorso 25 dicembre, dallo scorso 30 dicembre si trovava in una stanza dalla temperatura controllata all'interno della sua villa a Beach Island, South Carolina. Ora però le spoglie del cantante sono state spostate presso un luogo che non è stato reso noto, tratterebbe di una sistemazione temporanea, forse in attesa che la famiglia si metta d'accordo su come realizzare il museo che dedicheranno a James Brown. Pare che la villa stessa del cantante potrebbe trasformarsi in un museo, e che all'interno di questo museo si ospiterà per l'appunto anche la tomba del buon James Brown. Notizia di colore che alcuni senza battute, notizia di colore nel senso, siamo capiti, un paio di membri della famiglia di Brown avrebbero contattato membri della famiglia di Elvis Presley per ricevere consigli su come comportarsi. Ricordiamo che dopo la scomparsa del re del rock and roll Elvis, la sua villa di Graceland a Memphis è diventata meta di pellegrinaggio, visitata da circa 500.000 di persone all'anno, recita questa notizia che vi ho riletto. Speriamo che il buon James sicuramente possa riposare in pace, e dovessero fare un museo, sicuramente, sicuramente James verremo a trovarti. The Blues Brothers, Going Back to Miami. We would like to dedicate this song to a recently turbulent chunk of real estate at the end of Highway 41, just south of the Alligator Alley in the Florida Peninsula. And to a certain distinguished resident there, you may know him, Mr. Wayne Cochran. My brother Jake will sing about that town. Going back to Miami. Going back to Miami. Going back to my girl. Going back to my girl. I said I'm going back to Miami. Going back to Miami. Going back to my girl. Going back to my girl. I've got to get back to my baby. Sterziamo decisamente genere, sterziamo ambientazione e quant'altro, perché dai Blues Brothers torniamo a parlare italiano con il nostro album da scongelare, il secondo della nuova stagione, con il quale vi ho un po' spiazzato. Immaginavo, abbiamo iniziato con le Zeppelin 2 e poi di colpo siamo passati a un album prima di tutto italiano e secondo tutto sommato giovane rispetto alle proposte che vi facciamo nel corso del disco da scongelare, ma è stato un modo così per spronare anche alcuni di voi a proporre altri album. E infatti sono arrivate un po' di segnalazioni, era una mail, vediamo se la ritrovo. Eccola qui, del buon Alberto. Dice: visto che mi hai scongelato un album degli anni 90, non puoi non proporre qualcosa dei Misfits. Me lo segno, caro Alberto, mo segno, e al prima possibile sicuramente potremmo anche presentare qualcosa dei cattivi Misfits. Ma intanto occupiamoci di Marlene Kunz. L'album che vi stiamo presentando da lunedì è Catartica, pieno zeppo di canzoni meravigliose. Spero di farvi cosa gradita nel proporvi anche il brano di quest'oggi. Nello specifico è la traccia numero 7. Ricordi, Federica, i tuoi sandali? In realtà si intitola Tra Sud America. Disco da scongelare, tutto italiano, 1994. Marlene la migliore. Anzi, mamma Marlene è la migliore. Ricordi? Catartica, Marlene Kunz. È il nostro album da scongelare, quello che vi consigliamo nel corso di un'intera settimana. Cosa che ovviamente torneremo a fare domani. Spesso e volentieri questo accade nella seconda ora di Frigidaire, più o meno prima delle 16:30. Appuntamento invece nell'ultima mezz'ora, a proposito di appuntamenti musicali, con il nostro 3x1, che caratterizzerà anche quest'oggi la chiusura del nostro programma. Vi ho mai invitato questo sabato al Nautilus di Cardano al Campo, dove suonerò con i Pei? Sì, lo so, non c'entra niente, ma era solo per fare un po' di promozione. si suona con il buon Holiday The Fire in un concerto dove torniamo a roccheggiare duro, concerto con batterista vero e non finto. Detto questo, beh, potrei continuare con della buona musica che tra l'altro ben si accosta al brano dei Marlene, anni diversi, gente diversa, stati diversi, ma i brani sono sempre buoni. The Twilight Singers, Live With Me. It don't matter when you turn, gonna survive, live and learn. I've been thinking about you, baby. In my blues, day and night, I've been missing you. I've been thinking about you, baby. Come live with me. detto che si faceva festa, se non ci credeva è stato smentito. Una banda di zingaracci in giro per il mondo rispondono al nome di Gogol Bordello e con il loro gypsy punk da New York hanno deciso di conquistare il mondo. Sicuramente ha conquistato noi di Frigidaire. It was not a crime. In the old time. In the old time it was Crime. Spica perfectly natural. Gogo Bordello. Sì, è un casino qui negli studi di Frigidaire. Quando partono canzoni di questo tipo, le patatine vanno dappertutto, capito? Poi la mucca Camilla non è che ha delle mani prensili, cioè non ha il pollice opponibile, capito? Quindi non riesce a tenere in mano bene le patatine quando inizia a pogare. Con la mucca savia, veramente un bordello di patatine, sale e robe di questo tipo in giro per lo studio. Ma speriamo che il buon Marco Garavelli domani metta a posto il mixer di Frigidaire, che dopo ogni puntata è veramente un macello. È un macello caotico. Vado a salutare Simone che via SMS concorda con il messaggio letto poc'anzi riguardante i Misfits. Addirittura mi consiglia di scongelare Walk Among Us. Grazie per la dritta, Simone. Ringrazio anche da Firenze invece Marco, anche lui consiglia dei buoni album da proporre all'interno della nostra rubrica Il disco da scongelare. Temple of the Dog, sicuramente se non l'ho fatto la scorsa stagione, e mi fai venire il dubbio che non l'ho fatto, sarà uno dei prossimi. Adesso dopo il 1994 di questo giro si va un po' più indietro per le prossime settimane, ma quando ritorno un po' contemporaneo, Temple of the Dog va assolutamente tenuto da conto. Mother Love Bone, l'EP acustico degli Alice in Chain che avevamo proposto comunque la scorsa stagione, e No More Tears di Mr. Ozzy Osbourne. Come ho detto, zio Osmo, vabbè, facciamo finta di niente. Proseguo il Frigidaire con della ottima musica. Sono giovanissimi, ma spaccano tutto. Si chiamano Wolf Mother. E questa è Woman, per tutte le signorine all'ascolto. E via. Sono romantico oggi. We'll be right back. te come vola il tempo. Ultima mezz'ora di Frigidaire, tra poco appuntamento, come ricordato e come ben sapete, con i nostri 3x1, 3x1 anche in lingua italiana, Extreme, Rest in Peace, il brano che inaugura l'ultimo blocco di quest'oggi. Di solito Rest in Peace ce l'ho a inizio programma, quella roba che ti mette un po' inquietudine, iniziare un programma pensando che il brano si intitola Riposa in Pace, ma fa niente, è l'ultima mezz'ora e loro arrivano dal freddo nord, si chiamano Millencolin. Velocità dei Millencolin che ci portano all'appuntamento in rigorosissimo ordine alfabetico con il nostro 3x1, tre brani senza alcun tipo di interruzione. Proprio qualche giorno fa mi è capitata in programmazione un brano dei Matchbox 20 che era parecchio tempo che non stavo ascoltando, in rigoroso ordine alfabetico. Sapete chi ci capita quest'oggi? Proprio loro, 3x1 targato Matchbox 20. 3x1 Yeah. life is made up of all that you used to. And the clock on the wall has been stuck at 3 for days and days. She thinks that happiness is a map that sits on her doorway. But outside, it stops raining. Dalle 15 alle 17, anche l'unico neurone rimasto nella vostra testa batte da una parte o dall'altra. Ascolta Frigide. In onda su Rock FM dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Oh well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you. trying to make it. Be my breath so I can walk. If I need some other love, then give me more than I can stand. When my smile gets old and I hate it, wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me in there. Oh, just hold me again. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in. And this is how we really end. With you and me. Beyond. If I couldn't sleep, could you see? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in. And this is how we really are. With you and me. Never enough till I feel all your pieces starting down me. Keep bringing me on until I'm iniziata con 3 AM, proseguita con Push e terminata con Bent, 3x1 di quest'oggi, targato Matchbox 20. In realtà sfuma anche il tempo a mia disposizione, oltre che a Bent di Matchbox 20, non mi resta che invitarvi all'ascolto di questa sera di Easy Rider, tornata in forze dal lunedì al giovedì, dalle 21 alle 22, con me il buon Mox Cristadoro, ma soprattutto con la grande musica selezionata di Easy Rider, selezionata solo per il vostro piacere serale. Per quanto riguarda gli appuntamenti del weekend, l'invito che vi faccio è a un concerto con i miei Pay in versione punk rock con batteria umana e non finta al Nautilus di Cardano al Campo, il tempio del rock in provincia di Varese. È tutto per Frigiders, ci si risente domani dalle 15 alle 17. Psychedelic Force, ultimo brano di quest'oggi intitolato Heaven.